È la solita banale la metropolitana di nazione quotidiana delle lunghe attese per giungere al lavoro. Tagliare i ponti con casa, lavoro, amici. Tagliare i ponti con chi ti vuol far credere che si può essere felici. Under the bridge, Resta fermo immobile, chiudi la porta all'avvenire. I'm going to go to the hospital.